accogli nella tua bontà i doni che oggi noi ti offriamo, e fa che al mondo noi possiamo essere segno d'unità. In te, Signore, rifugio noi troviamo. Doni che oggi noi t'offriamo, e fa che al mondo noi possiamo essere.